E allora gli studenti si stanno muovendo in corteo per raggiungere Montecitorio e noi siamo collegati al telefono con una compagna che ci racconta come sta andando. Ciao. Ciao, sono Marta. Ciao Marta, allora raccontaci un po', insomma, questo corteo che si sta snodando per le strade della città, obiettivo raggiungere Montecitorio, vero? Allora, sì, stamattina da tutte le facoltà occupate della Sapienza ci siamo mossi in corteo, prima all'interno della città universitaria, e adesso ci stiamo dirigendo verso la metro di Castro Pretorio per poi arrivare a Montecitorio. E il corteo, contro tutte le aspettative, è partecipatissimo e devo dire un risultato eccezionale, nonostante avessimo avuto pochissimi giorni per garantire, insomma, la partecipazione, per costruire la mobilitazione in questa giornata, che invece è una partecipazione straordinaria. Altre facoltà ci stanno raggiungendo direttamente in centro e ovviamente è una mobilitazione straordinaria anche da parte dei ricercatori, che questa notte hanno occupato anche loro alla facoltà di architettura. E quindi diciamo che il lavoro dei collettivi all'università ha portato un ottimo risultato. L'obiettivo adesso è arrivare sotto Montecitorio e far sì che non venga approvata questa riforma. Però ricordiamo anche che la mobilitazione non è soltanto contro questo decreto, questo disegno di legge, che ricordiamo appunto che distrugge completamente l'università pubblica per come la conosciamo, promettendo l'ingresso dei privati, cancellando la figura del ricercatore, ma che allo stesso tempo, per approvarlo di fretta, il governo non solo ha tolto tutti quegli emendamenti che garantivano qualche piccolo reinvestimento all'università, tipo l'assunzione dei precari oppure qualche soldo in più distribuito un po' qua e là, ma ha proprio peggiorato tutta quella che era già una riforma veramente pessima. E quindi la mobilitazione è contro la riforma, contro i tagli del 90% al diritto allo studio e per l'assunzione di tutti i ricercatori. Bene, certo, insomma, una scossa a questo movimento contro la riforma Gelmini è stato dato nelle ore scorse a Torino con questa mobilitazione a Palazzo Nuovo. Anche a Roma decisamente si è entrati in una fase calda proprio a ridosso della corteo di oggi. Ti volevo chiedere anche a proposito, diciamo, della vostra presenza lì a Montecitorio. Lì, insomma, si proseguirà questa discussione alla Camera relativa alla riforma. Ci sono 400 emendamenti all'incirca che verranno discussi. Diciamo, a livello generale, la parola d'ordine da questo punto di vista del corteo, della mobilitazione, qual è rispetto anche agli emendamenti? No, assolutamente la posizione degli studenti e delle studentesse è che questa riforma non deve bastare. Non è emendabile, diciamo così. Non è emendabile, non sono gli emendamenti che risolvono questa situazione. La riforma non deve passare e assolutamente non accettiamo il fatto che in finanziaria sia previsto un taglio del 90% al diritto allo studio. Non sarà un emendamento o un decreto salva precari a risolvere le questioni dell'università, ecco. E comunque sì, assolutamente anche a livello nazionale volevo aggiungere che molte facoltà italiane, anche di Trieste addirittura, sono in mobilitazione in questo momento, nelle giornate di ieri e di oggi, in tutte le città, appunto ricordavi Torino, ma anche Firenze, Pisa, si stanno mobilitando e sono in piazza in queste giornate. Va bene, senti, i numeri del corteo hai detto che sono decisamente positivi. Siamo parecchi. Ho capito. D'accordo, insomma, volevo inoltre, prima di chiudere, che tu ci raccontassi, insomma, come hai vissuto le prime ore di questa giornata, in particolare nella tua facoltà fisica. No, guarda, le facoltà sono state chiuse per evitare di passare lezione e cercando quindi appunto di consentire a tutti di partecipare alla sede a Montecitorio, e allo stesso tempo perché siamo convinti che non è pensabile che l'università continui normalmente in una giornata come questa, in cui appunto verrà definito sicuramente verrà definito lo smantellamento dell'università pubblica e quindi è assolutamente impensabile restare fermi, restare nella normalità, diciamo, nella consuetudine e non mobilitarsi, non prendere posizione rispetto a quello che sta succedendo adesso alla Camera. E credi insomma che ci si è riusciti a così incutere un po' di reazioni rispetto a quelli che generalmente o si considerano totalmente estranei alla protesta oppure che accolgono in modo più freddo questo tipo di reazioni, insomma? No, io penso che molta gente si sta rendendo conto assolutamente della gravità della situazione. Sì. D'accordo. Lo dimostra insomma la giornata di oggi e speriamo che continui così. Va bene, senti Marta, io ti richiamerò più tardi per D'accordo. Seguire gli sviluppi del vostro corteo. Va benissimo, ti ringrazio. Ciao, a dopo. Ciao.